Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Polizia di Italia, Slovenia, Croazia e Bosnia impegnata in un'operazione contro lo sfruttamento dell'immigrazione irregolare. Arrestate 6 persone, tutte di nazionalità pakistana. La rete smantellata introduceva in Italia migranti attraverso la rotta balcanica. Per la campagna referendaria in Friuli Venezia Giulia il segretario della CGIL Maurizio Landini, in mattinata fra Porcia e Pordenone, nel primo pomeriggio in assemblea pubblica a Udine. A Gorizia invece è giunta la carovana UIL contro il lavoro precario, previste diverse iniziative fra oggi e domani. Il TAR del Lazio ha annullato 2 articoli di un decreto del 2024 sulle aree idonee agli impianti fotovoltaici, giudicandoli privi di criteri tecnici oggettivi. La sentenza potrebbe obbligare il Ministero a riscrivere la norma o a ricorrere al Consiglio di Stato. Le regioni, come il Friuli Venezia Giulia, attendono chiarimenti per certezze a chi intende investire nelle rinnovabili. Anche l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, fra quelle denunciate dall'Associazione dei Medici ANAO, per la violazione della normativa sulla tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive, che secondo il sindacato ha comportato una perdita di circa 200 euro in busta paga. Il Friuli Venezia Giulia continua ad avere l'incidenza più alta d'Italia di melanoma. I dati segnalano 400 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Sulle cause, sui fattori di rischio e soprattutto sulla prevenzione, intervista alla direttrice della struttura di dermatologia di Asugi. La società agricola Contessa Florio ha inaugurato il suo primo anno di attività con una presentazione ufficiale a Villa Florio Maseri. L'azienda gestisce 58 ettari di terreni per sostenere ricerca, formazione e borse di studio universitarie. A Trieste, nel rione di Borgo San Sergio, ieri sera è stato inaugurato il primo campo da baschina all'aperto, seconda tappa del progetto Playground Revolution promosso dalla Pallacanestro Trieste. All'evento hanno partecipato la squadra e numerose realtà educative e associative del territorio. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. Anche i reati di sequestro di persona, estorsione, minacce, violenze vengono contestate dalla magistratura a 6 cittadini pakistani arrestati fra Trieste, la Slovenia e i Balcani in seguito ad un'operazione denominata Dangerous Route, che ha smantellato un'organizzazione che gestiva l'immigrazione irregolare in Italia. Dopo un viaggio estenuante attraverso la rotta balcanica passando per Bosnia, Croazia e Slovenia, i passeur che promettevano alle persone migranti di nazionalità indiana la libertà una volta arrivati in Italia, in realtà giunti a Trieste in zona Piazza Oberdan, li facevano avvicinare da dei complici che li accompagnavano in appartamenti nella prima periferia della città e lì li sequestravano rinchiudendoli per giorni, agivano con violenza fisica e psicologica sulle vittime, filmavano e inviavano a scopo estorsivo i video a casa per ottenere in cambio del rilascio soldi. Dai 2 ai 15.000 euro la richiesta. In un caso la famiglia in India ha sborsato pagando tramite money transfer. I soldi sono stati poi rintracciati. È scattato il mandato d'arresto dalla procura di Trieste per 7 passeur pakistani, 5 con permesso di soggiorno e stabilmente domiciliati a Trieste, ora in carcere. Il 6° è stato raggiunto all'interno di un campo profughi in Slovenia. Il 7° è ancora ricercato in Bosnia. La polizia ha utilizzato intercettazioni, pedinamenti, videoriprese e monitoraggio dei social degli indagati, così per mesi. La maxi indagine di polizia, partita da 2 casi specifici di sequestro avvenuti in appartamenti di Via della Fabbrica e Via Baiamonte a Trieste, è poi risalita a un modus operandi del gruppo criminale lungo tutta la rotta balcanica, con taglieggiamenti, violenze, spaccio di droga, vittime migranti pakistani, nepalesi, afghani e indiani, coinvolte le polizie di Slovenia, Croazia e Bosnia. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rapina, tentata estorsione, lesioni e sequestro di persona. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il segretario generale della CGIL è oggi in regione. Maurizio Landini in mattinata sarà fra lo stabilimento Electrolux di Porcia e la cittadella della salute di Pordenone. Assemblea pubblica poi a Udine alle 15 al Teatro San Giorgio. Il tour di Landini per la campagna referendaria in vista della consultazione dell'8 e 9 giugno. Il sindacato propone 5 sì ai quesiti. Entra nel vivo la campagna per il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, in programma l'8 e il 9 giugno. Questa mattina è arrivato in regione il segretario generale della CGIL Maurizio Landini a sostegno del sì con 3 assemblee. Le prime due hanno coinvolto i lavoratori e le lavoratrici della Electrolux alle 10 nello stabilimento di Porcia. Ieri a Mestre si è tenuta l'informativa annuale. Secondo quanto esposto dalla direzione aziendale per il 2025, i volumi nella fabbrica friulana di lavatrici sono in lieve ripresa. Sono previsti 725.000 pezzi a fronte dei 707.000 del 2024, con oltre 12 milioni di investimenti. Il sindacalista è poi arrivato alla Cittadella della Salute di Pordenone, dove ha incontrato i dipendenti della sanità. Nel piazzale all'aperto dove ci troviamo l'incontro è in corso. Landini nel pomeriggio sarà poi a Udine in un'assemblea pubblica che si terrà alle 15 al Teatro San Giorgio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sentiamo dunque sui referendum le posizioni del leader della CGIL Maurizio Landini e del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Maurizio Landini, segretario generale CGIL. Abbiamo invitato ad andare tutti a votare perché quel voto permette di migliorare i diritti, permette di ridurre la precarietà, di tutelare contro i licenziamenti, di tutelare contro le morti sul lavoro e favorire la salute e la sicurezza, e pensiamo che sia importante andare a votare perché è un voto che cambia le leggi balorde che in questi 20 anni i vari governi hanno fatto e che hanno determinato una precarietà dei giovani senza fine e sta mettendo in discussione il futuro del nostro paese. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Pochissima gente sa qual è, nonostante la televisione e le reti in modo omeopatico si sforzino di spiegare di cosa si tratta, la stragrande maggioranza è chiamata semplicemente a dire sì, no. Ecco, io non credo che questo sia il modo corretto di affrontare elementi così delicati come quelli sottoposti al referendum. Per cui, per quello che mi riguarda, io non andrò a votare. Lo strumento referendario prevede il quorum e quindi offre 3 chance. 2 a quelli che non vogliono che questi quesiti passino così come sono, e il terzo per chi lo vuole. Ecco, quindi io utilizzerò lo strumento del non voto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Gorizia oggi e domani fa tappa la carovana della UIL per dire no ai lavoratori fantasma, ovvero per denunciare il dramma del precariato. Il precariato, quello del lavoro nero, quello sottopagato, meno di 24.000 euro all'anno, lavoratori che la UIL definisce fantasmi. Il Giro d'Italia del sindacato di bombardieri fa tappa a Gorizia, in una regione dove i dati sono migliori rispetto al territorio nazionale. Tasso di occupazione che sfiora il 70% e aumento dei contratti a tempo indeterminato dal più 2,4 al più 7,9%. Cifre che migliorano nei primi 2 mesi del 2025. Le assunzioni dei dipendenti crescono del 3,7% con un più 9,5% di crescita dei contratti a tempo indeterminato. La criticità riguarda i giovani che se ne vanno dal Friuli Venezia Giulia. 22.000 in 10 anni si sono trasferiti all'estero o in altre regioni. Matteo Zorn è il segretario regionale della UIL. Sicuramente servirebbe una riduzione delle tipologie contrattuali e la buona flessibilità è quella che viene contrattata con le parti sociali, è quella che propedeutica un'assunzione in azienda, è quella che serve rispetto a picchi produttivi o ragioni sostitutive e non per utilizzare una persona senza assumerla mai. Precarietà che non significa flessibilità. La UIL chiede al governo nazionale una nuova centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, guardando all'esempio di altri paesi. Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo UIL. In Spagna è stato sperimentato negli ultimi anni con un accordo tra le parti la possibilità di avviare soltanto contratti a tempo indeterminato. Questo ha prodotto più occupazione, aumento dei salari, più produttività e crescita del paese. Chiediamo al governo che anche in Italia possa accadere questo. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca, un ciclista di 65 anni è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale triesteno di Cattinara per un grave trauma cranico riportato a causa di un incidente avvenuto a Monfalcone in via Matteotti attorno alle 8 di stamattina. L'uomo è stato urtato dalla portiera di una vettura aperta improvvisamente da un automobilista che aveva appena parcheggiato ed è caduto dalla bicicletta sbattendo la testa. Una recente sentenza del TAR del Lazio potrebbe avere importanti ripercussioni sulla normativa nazionale e regionale in materia di impianti fotovoltaici. Al centro della questione la mancanza di criteri tecnici oggettivi per l'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee, con possibili conseguenze anche per le leggi regionali già adottate. La sentenza del TAR del Lazio dell'altro ieri annulla due articoli di un decreto ministeriale del giugno 2024 sull'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. La legge regionale del marzo 25 è stata scritta proprio in conformità a quegli stessi principi del decreto 2024, che ora potrebbe dover essere riscritto. Usiamo il condizionale perché sarà il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a valutare se fare ricorso al Consiglio di Stato oppure rimettere mano alla norma. La regione Friuli Venezia Giulia, una delle due che assieme alla Sardegna ha già legiferato in materia, sta studiando la sentenza, convinta di aver in parte già affrontato alcune questioni e attende di vedere come si muoverà il Ministero. La sentenza dovrebbe limitare la discrezionalità amministrativa in capo alle regioni, imponendo allo Stato di rimodulare la normativa per assicurare omogeneità di giudizio tra le varie amministrazioni regionali e standard nazionali uniformi. Per il TAR manca l'individuazione di criteri tecnici di tipo oggettivo per la definizione di aree idonee e per tutelare l'ambiente, paesaggio e patrimonio artistico-culturale. Oppure mancano criteri di valutazione tarati sulla tipologia di fonte rinnovabile, o ancora sulla taglia dell'impianto, oppure situazioni di concentrazione di impianti. Nei piani della regione i sindaci avrebbero il compito di fornire i piani regolatori aggiornati dei propri comuni così da completare una cartografia a livello regionale, ma al momento è stato messo tutto in stand-by. Per Simone Togni, presidente dell'Associazione Nazionale Energia del Vento, che ha vinto il ricorso al TAR, è un peccato aver perso due anni. Impossibile fare impresa iniziando a investire su un territorio quando poi una norma regionale potrebbe definire non idonea un'area che per lo Stato invece idonea lo era. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via la campagna nazionale dell'ANAO contro le violazioni di leggi e contratti da parte delle aziende sanitarie di tutta Italia. In una conferenza stampa poco fa a Roma, i referenti del principale sindacato dei dirigenti medici e sanitari, ospedalieri e territoriali hanno presentato i primi risultati del monitoraggio e fra le 50 aziende sanitarie finora denunciate c'è anche quella del Friuli Occidentale. Per ora è l'unica anomalia riscontrata in Friuli Venezia Giulia dal monitoraggio nazionale sulle aziende sanitarie italiane avviato da NAO Assumed, il sindacato dei dirigenti medici e sanitari ospedalieri e territoriali contro violazione di leggi e contratti. Il sindacato l'ha denunciata su segnalazione di un iscritto secondo cui l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale non ha applicato la tassazione agevolata al 15% su tutte le prestazioni aggiuntive dei propri medici e sanitari ospedalieri, come invece prevede la normativa nazionale dello scorso giugno, corroborata anche da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e della Conferenza delle Regioni. Significa circa 200 euro in meno in busta paga, stima la NAO, una violazione che, vista la dedizione dei dirigenti medici e sanitari e la mole di lavoro che hanno sulle spalle, lascia la mano in bocca, commenta il segretario regionale di ANAO Assomed Tosto. Asso risulta tra le 50 aziende finora denunciate dal sindacato per varie violazioni di leggi e contratti nell'ambito della campagna nazionale di ANAO, i cui risultati sono stati resi noti stamani in una conferenza stampa a Roma. Il legale del sindacato lo scorso 6 maggio ha inviato ad ASCO una lettera di segnalazione di sfida con una richiesta di spiegazioni e di adempiere alla normativa vigente. La risposta non è ancora arrivata, fa sapere Tosto. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Tonutti, da noi interpellato, prende atto e anticipa che farà le opportune verifiche con gli uffici competenti. Sullo stesso caso finora non sono pervenute al sindacato segnalazioni di altre aziende sanitarie inadempienti, anche perché non sono ancora state pagate tutte le prestazioni aggiuntive eseguite nel 24, precisa Tosto. Oltre a questa questione, sotto la lente di ANAO, fra l'altro, anche il regolamento sull'orario di lavoro e i documenti sul rischio lavoro correlato. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La Polizia Locale e la Guardia di Finanza di Trieste hanno portato alla luce un traffico illecito di tabacco da masticare, comunemente conosciuto come snus e gutka. L'attività di controllo ha portato al sequestro di oltre 180 kg di tabacco, spesso occultato tra i generi alimentari in vendita negli scaffali o nei magazzini di negozi gestiti da cittadini stranieri. Lo scorso aprile, su disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state emesse ordinanze per la chiusura di tre esercizi commerciali di Piazza Libertà, Viale D'Annunzio e Via Carducci per periodi dai 20 20 ai 30 giorni. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da variabile a nuvoloso su tutta la regione. Ed ecco le temperature alle 11. A Trieste 19 gradi, a Gorizia 20, a Udine e a Pordenone 19,5, a Tolmezzo 17,5, a Tarvisio 17, a Forni di Sopra 15,5, a Sappada 13,5. Monte Lussari 8,5, Monte Zoncolan 7,5, a Lignano 21 gradi e a Grado 19. Queste le previsioni. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla zona montana, con probabili rovesci e temporali in estensione, poi alla pianura e in serata anche alla costa. Su bassa e costa soffierà scirocco debole o moderato, mentre in serata vento da nord o bora moderata, sostenuta a Trieste di notte. Il Friuli Venezia Giulia continua ad avere l'incidenza di melanoma più alta d'Italia. I dati segnalano circa 400 nuovi casi diagnosticati annualmente. Sulle cause, sui fattori di rischio e soprattutto sulla prevenzione, abbiamo parlato con la professoressa Iris Zalaudek, che oltre ad essere la direttrice della struttura di dermatologia di Asugi, è una delle professioniste più note a livello internazionale nell'ambito della medicina, che si occupa delle patologie della pelle. Perché l'incidenza di questo tipo di tumore in Friuli Venezia Giulia continua a rimanere molto alta, tra le più alte se non la più alta d'Italia? In effetti Friuli Venezia Giulia viene anche chiamato l'Australia dell'Italia, proprio perché ha la più alta incidenza sia di melanoma che di tumori non melanoma, quindi carcinomi di diversi tipi della pelle. Le cause sono un po' multifattoriali. A un lato certamente la posizione al mare, poi una popolazione con un fototipo piuttosto più chiaro rispetto a altre regioni dell'Italia, e poi anche un po' la influenza etnica, demografica e un misto della popolazione. La prevenzione c'è, possiamo farla, forse non tutti sanno farla correttamente. Iniziamo dagli errori che non devono essere fatti. Allora, quando parliamo dei tumori cutanei e del melanoma, l'unica causa che conosciamo fino ad oggi è la esposizione al sole. Quindi qui possiamo intervenire con le precauzioni, cioè di evitare l'eccessa esposizione al sole, ma soprattutto anche l'utilizzo corretto delle creme solari. Un errore è che si creda: una volta messo, quando esco dalla casa, mi protegge per tutta la giornata. Non è vero, noi dobbiamo sempre rimettere praticamente ogni 2 ore di nuovo la crema solare per avere effettivamente la protezione. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. La società agricola Contessa Florio inaugura l'avvio del primo anno di attività. Il programma di lavoro della società, costituita dalla Fondazione Maseri e dall'Università di Udine, è stato presentato in mattinata a Villa Florio Maseri, a Persereano di Pavia di Udine. La società è intitolata a Francesca Florio, agronoma e moglie del grande cardiologo friulano. La Fondazione Attilio Maseri estende ora la sua azione anche con una società agricola, la Contessa Florio, intitolata alla moglie dell'illustre cardiologo friulano che ha lasciato parte del suo patrimonio all'Ateneo Udinese. In Villa Florio Maseri a Persereano la presentazione dei primi mesi di lavoro e il programma. La professoressa Cristiana Compagno, già rettrice dell'Università di Udine e presidente della Fondazione, ne inquadra ruolo e finalità. Qual è l'obiettivo? Ovviamente creare condizioni di sostenibilità per la Fondazione, ricavare, se possibile, evidentemente delle risorse dall'utilizzo, dalla valorizzazione del patrimonio agrario per, qual è l'ultimo obiettivo? Quello di sostenere gli studenti e ricercatori meritevoli dell'Università di Udine. Presidente della società agricola è il professor Raffaele Testolin, già docente dell'Ateneo Udinese. Abbiamo preso in mano che insomma aveva un po' di bosco, dei seminativi, molto prato, rendeva poco, e quindi noi, avendo l'obbligo di creare reddito per finanziare delle borse di studio, stiamo riconvertendo una parte della superficie in frutteti. Quindi abbiamo fatto un ettaro di melo, un ettaro di ciliegio, tutti sotto copertura, e poi 5 ettari di olivo super intensivo, completamente meccanizzato. Non potevano mancare le api. Abbiamo anche una decina di alveari per il momento. Nel giro di un paio d'anni speriamo di arrivare a almeno una cinquantina di alveari per produrre miele. 110 ettari complessivi, quando saranno tutti in produzione? Al primo anno già producono qualcosa, al secondo anno sono a metà della produzione potenziale, al terzo anno sono in piena produzione. Per Sereano, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, nel rione di Borgo San Sergio, con una grande festa è stato inaugurato ieri sera il campo da gioco riqualificato, il primo campo da Bashkin aperto alla città. Si tratta della seconda tappa del progetto Playground Revolution, promosso dalla Pallacanestro Trieste attraverso la sua associazione Il Cuore in Campo. Dopo l'intervento, sempre realizzato grazie al comune, avviato lo scorso anno a Valmaura, continua dunque il percorso di generazione degli spazi sportivi cittadini in uno dei quartieri simbolo della città. Obiettivo: restituire alla comunità un'area pubblica accessibile, sicura e inclusiva. Affollatissima all'inaugurazione, presente tutta la squadra della Pallacanestro Trieste. Il progetto ha coinvolto il tessuto sociale ed educativo triestino, 79 istituti scolastici, 15 tra associazioni sportive e di volontariato. Ma sentiamo le interviste a Maria Beatrice Cavaretta, presidente dell'associazione Il Cuore in Campo, e a Michael Arcieri, general manager della Pallacanestro Trieste, intervistati da Elisabetta Zaccolo. A chi sarà dedicato questo campetto riqualificato? In realtà è dedicato a tutta la comunità di Trieste, quindi tutti i cittadini, tutti i rioni. Il motivo per cui questo è il campo di tutta la città è proprio perché Pallacanestro ci teneva a rendersi portavoce di tutta la città, così come dall'inizio dell'anno abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzini della città stessa, attraverso il bando lanciato a 79 scuole. Era proprio perché volevamo che tutti si sentissero partecipi di questo campo, perché quello che vogliamo creare qui sono legami. Noi non siamo una ditta edilizia, noi cerchiamo di mettere insieme realtà che sono apparentemente molto distanti, ma che poi di fatto condividono i principi, gli stessi principi, gli stessi valori. Michael Alceri, general manager della Pallacanestro Trieste, questo è un intervento che va oltre la riqualificazione. Speriamo di sì, sicuramente. Vogliamo non solo rifare un campetto, ma creare legame fra le società e le realtà che sono qui, le scuole, la chiesa, l'associazione, il club di soccer, anche con il basket. Allora speriamo che questo possa essere un punto di riferimento, un spazio sicuro, pulito, però speriamo che può creare un po' più di solo un spazio fisico. Una domanda per i tifosi: potranno assistere alla partita qua a Trieste? Ma sicuramente se c'è una partita, una gara 4, sicuramente, ma lo so che sta parlando di gara 3. Abbiamo fatto ieri un altro ricorso al CONI, loro devono rispondere entro venerdì, allora sapremo il destino di gara 3 tra qualche giorno. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti di oggi: alle 15 a Gorizia, all'oratorio della parrocchia della chiesa di Sant'Anna in via Fratelli Cossar, verrà presentata la decorazione pittorica orizzontale del campo di basket e Baskin, vincitrice della terza edizione di We Love Safety FVG. Il progetto di decorazione ha coinvolto gli studenti e i docenti del liceo artistico Fabiani di Gorizia in collaborazione con l'artista Mattia Campodall'Orto. E vediamo alcuni eventi di oggi nell'ambito della Settimana della Cultura Friulana. Alle 16 a Trieste, nella sede dell'Istituto Regionale per la cultura istriano, fiumano e dalmata, il convegno Il Veneto nell'Alto Adriatico, che si propone di illustrare le relazioni tra le parlate della vasta area costiera tra Italia, Slovenia e Croazia. A Udine alle 18, nella sede della Società Filologica a Palazzo Mantica, presentazione del volume Acque Vive, la via dei fiumi in Friuli Venezia Giulia di Cristina Noacco, un viaggio da Sappada a Trieste che si svolge lungo i corsi d'acqua. A Gorizia, in Casa Ascoli, alle 18.30, la conferenza in musica L'emigrazione friulana di Stefano Perini con l'ensemble di fiati San Paolino. A Tarcento, la cerimonia di premiazione del concorso dedicato alle scuole nell'ambito del premio dedicato al linguista friulano Chino Ermacora alle 17 in Sala Margherita. La storia del Friuli come importante location cinematografica comincia oltre 70 anni fa, quando per la prima volta una troupe di Cinecittà arriva in Carnia per girare il lungometraggio Penne Nere di Oreste Biancoli con Marcello Mastroianni, Marina Vladi ed Enzo Staiola. La Cineteca del Friuli ne conserva una copia nel formato originale in pellicola e lo propone per la prima volta in versione restaurata. La proiezione alle 18 al cinema Visionario di Udine sarà introdotta dallo storico Carlo Gabercek. Una mostra fotografica per rendere onore ai moltissimi minatori che dal Friuli partirono per lavorare in Belgio, diversi dei quali perirono in disastri come quello di Marcinelle. Si chiama Cuori di Carbone e lo ha curato Andrea Campagnolo, giovane studente dello IAL di Latisana. L'appuntamento è alle 16 nella sala convegni dell'ex stazione ippica di Latisana. L'Università di Udine incontra le professioni e le realtà del turismo culturale. Sono 20 gli enti che oggi alle 15 a Palazzo di Top Wasserman parteciperanno a Il tuo futuro è oggi, le professioni del turismo culturale, appuntamento con associazioni e realtà del settore disponibili ad accogliere studenti per svolgere tirocini. Obiettivo dell'evento: perfezionare il percorso di studi, aiutando gli studenti nella ricerca dell'esperienza pratica idonea per completare il percorso formativo e porre le basi per un primo passo verso il mondo del lavoro. Marina Petronio, in dialogo con Enrico Cernigoi, presenta a Monfalcone il libro Il caso Winckelmann, che ricostruisce uno dei più famosi casi giudiziari del Settecento europeo, ovvero l'assassinio del celebre storico dell'arte antica avvenuto l'8 giugno 1768 nella Locanda Grande di Trieste, alle 18 nel giardino della Biblioteca Comunale. Il progetto di realizzare un parco fotovoltaico nei terreni adiacenti al sito UNESCO e all'area archeologica di Aquileia costituisce un rischio per l'inestimabile patrimonio dell'area. Lo sostiene l'Associazione Italia Nostra, che per parlare di questo tema ha organizzato l'incontro dal titolo Tutelare i siti UNESCO, il caso di Aquileia, che si svolgerà alle 18 nella sala del Consiglio Comunale di Aquileia. Nuovo appuntamento della rassegna Caffè Letterari dedicata a Giuseppe Ungaretti. Al Museo di Storia e Preistoria attorno al Timavo del Villaggio del Pescatore va in scena Echi di Storia, uno spettacolo itinerante tra le postazioni del museo in cui l'attore Gualtiero Giorgini darà vita agli oggetti compagni di viaggio dei soldati al fronte, alle 17.30. Le neoplasie colorettali, come prevenirle, come curarle, il titolo dell'incontro informativo che si terrà stasera a cura del professor Giovanni Terrosu, direttore della clinica chirurgica di ASU, alle 20 nella sala consiliare del comune di Corno di Rosazzo. Una vita per bene, 1919-2009, è il diario di Pier Giuseppe Palombi, in cui l'autore narra con molta ironia le vicende di un uomo comune che ha attraversato la storia con la S maiuscola. Il volume sarà presentato dalla figlia Silvia oggi alle 18 al Museo Letterario Letz in Piazza Ortis a Trieste. Sono le 12.57 minuti. Questa edizione si conclude qui, si avvalsa dell'assistenza tecnica di Mauro Cumin e Caterina Cabrelli e della collaborazione in redazione di Cristina Polselli. Grazie della cortese attenzione. Attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.